un saluto particolare e particolarmente affettuoso anche a Ettore Frangipane, che torna per la quarta volta qua da noi con Bolzano scomparsa 4. Ce l'aveva promesso quest'estate e siamo contenti. Prenoto per l'anno prossimo. Siamo contentissimi. Sì, siamo contenti per tanti motivi. Primo perché sono sempre cose interessantissime che ci propone e ci aiuta così anche nella ricostruzione della storia della nostra città, quindi sono dei tasselli che vengono ricomposti con grande pazienza, con grande professionalità e che poi hanno un riscontro sempre anche nel pubblico, che questa sera ne è una testimonianza, ma anche in altre occasioni di presentazione non manca mai. E poi perché incuriosiscono, questi libri poi stimolano appunto l'approfondimento anche di certi episodi, restituiscono una storia molto interessante e accompagnato sempre anche da un apparato iconografico che fa la differenza, insomma. Ecco, la storia moderna e contemporanea passa anche per le immagini, non solo quelle le fotografiche, ma anche quelle in movimento, e quindi è una componente in più che abbiamo nella ricostruzione della storia, ma anche nel renderla più, diciamo, attraente per il pubblico e per chi la vuole studiare. Bene, questa sera vedo che il pubblico è numeroso, mi dispiace perché la struttura è così, è piccola, non riusciamo a farla allargare. Però, insomma, siamo sempre fiduciosi nella costruzione del polo bibliotecario, che io ripeto come un ritornello, ma insomma ormai sarà una realtà, il liceo classico è quasi ultimato e quindi poi inizierà anche il cantiere per il polo bibliotecario. Noi saremo al terzo piano, quindi poi ci sarà sicuramente un altro modo di accogliere molto più ampio, di grande respiro di quello che c'è adesso, ma ciò non toglie che abbiamo sempre voglia di presentare settimanalmente degli autori, dei libri, oppure di creare delle occasioni di dibattito, di confronto e soprattutto di stimolare chiaramente la lettura di questi libri che raccogliamo, cataloghiamo e mettiamo sugli scaffali. In questa biblioteca chiaramente i libri che ci sono un quarto di quello che abbiamo, perché il resto in un magazzino. Questa è una biblioteca underground, un giorno o l'altro faremo anche delle visite guidate nel nostro magazzino, che è bellissimo, però ecco, portiamo un pazienza, insomma, per qualche anno ancora. Cedo la parola subito al nostro ospite, che ringrazio ancora e aspettiamo con ansia anche il nuovo volume, con tanti in bocca al lupo. Grazie. Io forse trovo più facilmente il posto qua, sto pensando, perché se voglio indicare qualcosa, tanto a voi interessano più le immagini, la mia faccia ve la fotografate adesso nella memoria, io... Vedo tanti amici, alcuni anche molto scomodi qua. Vuole il microfono? No, no, mi sentite? Ma... c'è anche il microfono, i potenti mezzi, ciao Lina, i potenti mezzi, questa volta non della RAI ma della biblioteca, consentono anche questo. Dunque, questo è il quarto volume della serie. Il primo volume è stato ristampato, per cui lo potete trovare, era andato esaurito. Vi sono alcune copie, mi pare, qua del secondo e del terzo volume, oltre che del quarto. La signorina è qua a disposizione di chi volesse operare degli acquisti. Il quarto volume è in distribuzione nelle librerie, comunque, e anche in numerose edicole. Vi premetto brevemente il solito discorso, solito nel senso che ripeterò quello che ho già più volte detto: questi volumi non sono altro che la raccolta di articoli che io scrivo sui giornali, Alto Adige prima, poi Corriere dell'Alto Adige, attualmente nuovamente Alto Adige, escono domenicalmente, raccontano la storia, le cronache, i personaggi, le situazioni curiose di Bolzano attraverso gli anni, situazioni e persone, cronache, eccetera, eccetera, che io colgo leggendo i giornali del passato. Sto muovendomi attualmente nell'ambito dell'Ottocento, sto leggendo adesso la Bozner Zeitung del 1864, comunque le cose che voi vedete spaziano dal 1850 al 1950, vorrei concludere un secolo di giornali bolzanini, delle relative cronache, e poi, come diceva mio padre, a Dio piacendo, inshallah, forse riuscirò anche ad andare avanti oltre il 1950. Quarto volume. Incominciamo a parlare di questo quarto volume. Eccolo qua, il numero 4. Che cos'è questa immagine? Questa immagine è Piazza delle Erbe nella prima metà del 1800. Qua è arrivata la diligenza, perché la diligenza si fermava qua. Questi edifici che vedete qua sulla, scusate, che vedete qua sulla sinistra, oggi non c'è più, perché è stato abbattuto, lì inizia via Museo, che si chiamava la Fleischgasse. La diligenza arrivava ad ore fisse, da nord, ma anche da sud, perché poi la diligenza proseguiva il suo viaggio, consegnava la posta, la gente vi saliva, il biglietto costava molto caro. Nella seconda metà dell'Ottocento restò in attività solo da Bolzano a Innsbruck, che nel frattempo si era costruita la ferrovia nel 1859 da Verona a Bolzano. Quindi per effettuare un viaggio da Verona, Milano, Verona, Venezia in su, bisognava fermarsi a Bolzano e si riprendeva la diligenza e si andava verso Innsbruck, dove si poteva riprendere il treno che conduceva a Vienna, che conduceva a Monaco. Il servizio postale fu inaugurato nel 1500 circa, a cavallo tra 1400 e 1500, dall'imperatore Massimiliano I, che era padre di Carlo V, quello sul cui regno non tramontava mai il sole. Mi sentite forse un po' meglio adesso? E i primi ad avere in concessione il servizio postale, il famoso Corriere delle Fiandre, dalle Fiandre fino a Roma, su concessione imperiale, furono i Thurn und Zaxis, che altro non erano che la famiglia bergamasca Torre e Tasso, che si tedeschizzarono, diventarono nobili, e fecero precedere il loro nome da un von Thurn und Zaxis. Questo personaggio non ha nulla a che fare con il Thurn und Zaxis, questo personaggio è Enrico d'Asburgo, arciduca d'Austria, che è sepolto nel Duomo di Bolzano, nella cripta che si trova nell'ambulacro del Duomo di Bolzano. Una visita a quella cripta è molto interessante. Questo è nuovamente Enrico d'Asburgo. Questo è suo padre, e ci soffermeremo un pochettino su suo padre, che era Ranieri d'Asburgo, Rainer von Österreich, che è capitato a Bolzano in circostanze molto particolari e qui è morto. Lui era un Asburgo, quindi rientrava nella famiglia degli Asburghi, nel giro dei papabili per il titolo di Kaiser. Era viceré del regno Lombardo-Veneto a Milano, ne fu cacciato nel 1848 dai milanesi le cinque giornate di Milano e venne a Bolzano con la sua consorte, che era Elisabetta di Savoia-Carignano, sorella di Carlo Alberto, re di Sardegna. E sto dicendo cose che forse alcuni di voi già sanno perché già le ho dette, comunque le rievoco rapidamente. E tra parentesi, questa coppia che venne a Bolzano e trovò alloggio a Palazzo Campofranco ebbe cinque figli. Una figlia si chiamava Maria Adelaide e andò sposa a Vittorio Emanuele II, re di Sardegna e poi re d'Italia. Come vedete, questi Asburgo e Savoia si odiavano e si amavano. E un altro fu proprio Enrico d'Austria, che arciduca anche lui, che venne a sua volta qui a Bolzano. Morirono i suoi genitori, prima morì Rainer von Österreich, poi la consorte, sono entrambi sepolti anche loro, imbalsamati nella cripta del Duomo di Bolzano, che ripeto ancora una volta è molto interessante visitare, anche perché non ci sono dei sarcofagi, ci sono delle bare esposte, sono quattro per la verità. Come nella chiesa dei Cappuccini a Vienna, secondo l'usanza asburgica, il morto veniva imbalsamato, la bara veniva esposta in quanto tale, evidentemente ben protetta, insomma. E poi a parte si esponevano i canopi con il cuore e i visceri del defunto. Il funerale di questi personaggi, che partì da Palazzo Campofranco, tutte le volte poteva avere, volendo fare gli spiritosi, anche un certo risvolto, oltre che macabro, anche un po' ridicolo, perché il trasferimento avveniva a rate: prima la bara, poi un canopo con un portato da un servitore, un paggio in polpe, capelli bianchi, parrucca, e poi le viscere, i visceri e successivamente. Questo che avete visto prima, mi scappa il dito, sono le dita grosse, qua i tasti sono piccoli, anche con i telefonini è sempre un problema. Questo è Enrico, quindi, che era figlio dei due precedenti personaggi, cioè di Rainer e di Elisabeth, il Rainerum e l'Elisabettinum, che sono qui a Bolzano, ricordano questi due personaggi. E questa è Leopoldine Hoffmann, che è una cantante che fece incapricciare di sé Enrico a Graz. Enrico chiese a Francesco Giuseppe l'autorizzazione a sposarla, non fu naturalmente concessa, una borghese per di più cantante. Quindi Enrico arciduca venne a Bolzano con Leopoldine a Palazzo Campofranco, la sposò di nascosto dal Kaiser nella cappella gentilizia e fu subito esautorato dall'imperatore di tutte le prebende, di tutti i titoli, non più arciduca ma solamente barone di Waideck. Se ne andò con Leopoldine, baronessa di Waideck, a Lucerna, dove nacque la piccola Raniera. Allora Francesco Giuseppe ci ripensò, consentì loro di rientrare, anziché a lui, rientrare nei titoli, arciduca nel caso specifico. Vennero a Bolzano anche loro in Palazzo Campofranco. Il Palazzo Campofranco fu un po', in un certo senso, il rifugio di questi Asburgo che venivano allontanati da Milano e anche da Vienna, perché caduti in disgrazia, e qua morirono, qua furono imbalsamati proprio in Palazzo Campofranco, perché si chiama Palazzo Campofranco. La chiudo subito, perché la piccola Raniera, che nacque da questo matrimonio, sposò, crescendo negli anni, nella seconda metà dell'Ottocento, un siciliano, Enrico, principe di Campofranco. Ecco perché questo palazzo così si chiama. Questo è semplicemente il giornale, la Bostoner Zeitung, è uno dei giornali che sfoglio per apprendere queste notizie. È interessante perché questo è il manifesto dell'imperatore Francesco Giuseppe che annuncia la seconda guerra di indipendenza, 1859, e parlerò di questo libro, di quest'ultimo libro, di questa guerra, anche perché accade una cosa che io non sapevo e che sicuramente neanche voi sapete, e cioè che Garibaldi arrivò al passo dello Stelvio, lo sapevate? No. È una cosa curiosa, no? Mentre si combatteva nella Val Padana, da una parte i franco-piemontesi, dall'altra parte gli austro-ungarici, parlando di Solferino, San Martino e via dicendo, quel cane sciolto che era Garibaldi partì dal Piemonte con 3.000 uomini, arrivò a conquistare la Valtellina con 12.000 uomini. Man mano le sue forze aumentavano, tale era il fascino che quest'uomo promanava, e arrivò fino allo Stelvio. Allo Stelvio affrontò gli Schützen, tra l'altro 200 Schützen bolzanini, comunque gli Schützen del Tirolo, più i Kaiserjäger, ma fu fermato dalla pace di Villafranca, come sarebbe avvenuto anni dopo con il famoso obelisco di Bezzecca. Anche in questa occasione Garibaldi, che conoscendo la sua forza d'urto sarebbe potuto arrivare forse a Merano, forse a Bolzano, fu costretto a fermarsi. E qui siamo in un'altra epoca, qua siamo negli anni 30, vi propongo Achille Starace, il segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista durante l'inaugurazione dei rioni Dux, vale a dire semirurali, e Littorio, che sarebbe poi il rione di via Torino, via Milano, eccetera. Questo che vedete qua è il segretario dell'Alto Adige, segretario federale del Partito Nazionale Fascista Alto Artesino, Mastro Mattei. Perché vi voglio proporre queste immagini? Per darvi un po' un'idea di quella che era la prosopopea fascista in quegli anni, la prosa fascista in particolare. Vi leggo un po' di questa prosa. 24 luglio 1938, la provincia di Bolzano, una giornata trionfale per l'Alto Adige fascista. Sua Eccellenza Starace celebra l'eroismo dei legionari altesini alla presenza di un'immensa folla di camicie nere di popolo. Dal discorso: il fascismo altoatesino è un blocco sempre più potente di spiriti sul quale il duce, condottiero della rivoluzione delle camicie nere, può in ogni tempo contare con assoluta certezza. Più avanti, il rito guerriero, siamo in Piazza della Vittoria, come avete visto, come state vedendo, dietro ci trova via 9 maggio, giorno della proclamazione dell'impero, oggi Corso Libertà. Il rito guerriero altamente suggestivo, svoltosi domenica mattina nella presenza del segretario del partito nella stupenda cornice di Piazza Vittorio nereggiante di folla, rimarrà a lungo impresso nella mente e nel cuore della gente atesina. Era tutto un popolo, una marea sconfinata di 50.000 persone dilaganti oltre ai limiti dell'ammassamento lungo tutte le vie che convergono nella piazza dedicata ai riti della ricordanza e alla esaltazione delle memorie più sacre che onorava i suoi caduti. Gli legionari che in terra d'Africa per la conquista dell'impero e l'intera iberica per un superiore ideale di civiltà e di giustizia hanno fatto olocausto della loro vita. Era tutto un popolo rappresentato da uomini e donne. E via via, il tono, come sentite, è encomiastico, no? Molto, molto, molto compiaciuto. Le forze del regime operanti in questa romana terra del Brennero, saldamente inquadrate e animate da alta tensione ideale, eccetera, eccetera. In un'altra occasione, qui siamo nel 1940, in maggio, in Piazza della Vittoria, e adesso avete riscontro dell'immagine. Lo schieramento delle forze fasciste era imponentissimo, dominava, proteso verso la marea di folla come la prora di una nave, il podio adornato di tricolori dinanzi al quale, espressione della potenza militare dell'Italia guerriera, stavano due carri d'assalto, Sui carri immobili statuari due balilla montavano la guardia. Ecco uno dei due balilla, balilla moschettiere, come voi vedete. Questa era la prosa dell'epoca. Questa è invece Sissi, Elisabetta di Wittelsbach, consorte di Francesco Giuseppe. Perché ve la propongo? Perché descrivo nel libro una bellissima passeggiata che voi dovreste andare a fare in una bella, nella bella stagione. Dovreste andare verso la Valdega, prima di Carezza, prendere a sinistra, c'è una strada che indica un'indicazione che indica la Moseralm, dopo 200 metri a sinistra c'è la promenade di, della Kaiserin Elisabeth Promenade. Era un percorso che la, l'imperatrice faceva passeggiando, lì era alloggiata al Grand Hotel Carezza e da lì si muoveva lungo questa dolce passeggiata che è molto bella a ripetersi anche ora. Tra l'altro la sua dama di compagnia descrisse, ma voglio risparmiarmi questo, questa lettura, descrisse una serata deletante nella quale la principessa Sissi, ora ormai imperatrice ed Austria, stava seduta in silenzio ad ammirare l'enrosadira, cioè l'arrossarsi della, della parete rossa, della Rotwand che era lì davanti. E questi sono altri, altri VIP, potremmo dire oggi, no? Questo è in, in Alto Adige. Qua, se mi valga bene, negli anni 30, questo è il principe Umberto. Questa è Maria José, questa è Maria, sua moglie, questa è Maria Gabriella e questo è Vittorio Emanuele. Guardatelo un po', mentre suo padre o sua madre cercano di mettere in testa un cappello d'alpino. L'interessante è il costume garderese che questo bambino ha, perché all'epoca, in pieno fascismo, naturalmente i bambini dovevano vestirsi da balilla o da figli della lupa. Noi siamo stati tanto figli della lupa quanto balilla, mi viene un po' da ridere. Comunque, siccome c'era un certo astio tra casa regnante e fascismo, e soprattutto alimentato da, da Maria José, forse per fare un dispetto alle autorità di turno, fecero vestire in questo modo, vestirono in questo modo il piccolo Vittorio Emanuele, non ancora quarto. Questo è un altro articolo che dedico a Rodolfo d'Asburgo e la sua amante, la Vezzera, perché, perché nella seconda metà del, dell'Ottocento, come sapete, a Mayerling lui uccise la sua amante e si suicidò, versione ufficiale. Venne però fuori poi e il giornale Il Tiroler, del Tiroler, la raccontò riprendendola dal Corriere della Sera, una testimonianza di Costantino Nigro, Nigra, che era ambasciatore a Vienna e sarebbe diventato anche ministro della realtà, realtà in Italia. Secondo questa testimonianza di Nigra, che arrivò ancora prima di Carlo, di Francesco Giuseppe a Mayerling, Rodolfo presentava, prima della fasciatura, una, un buco profondissimo dietro l'orecchio, effetto del colpo di pistola sparato lì. E disse Nigra, e disse un medico che era presente, a Nigra, che era impossibile suicidarsi tenendo la pistola in questa posizione. Per cui si alimentò il sospetto che Rodolfo fosse stato ucciso. Rodolfo aveva delle, delle smanie autonomistiche nei confronti del, del, del, dell'Ungheria. Sarebbe stato ucciso dai servizi segreti. Da notare una cosa, che Zita, imperatrice Zita, consorte di Carlo I, che fu l'erede 1916 di anche 17 no 16 di Francesco Giuseppe, disse e dichiarò appunto che Rodolfo era stato ucciso. Questa è Claretta Petacci. C'è un articolo, uno dei tanti articoli che alimentano questo libro, che fa riferimento anche a Claretta Petacci e all'ultimo periodo della Repubblica di Salò, quando la Petacci viveva vicino al Duce, ma non col Duce, a Salò per l'appunto, sul lago di Garda. Ci fu un episodio, lei sempre gelosa, sempre innamorata del Duce, che però qualche cornetto glielo faceva lo stesso, venne a sapere di una signora che era andata a visitare il Duce, si era con lui intrattenuta, allora si arrabbiò, fuggì e se ne venne a Bolzano e poi Merano. Con chi? Con Spengler, che era un SS del Renon, che era stato delegato a fare compagnia, guardia del corpo, sicuramente anche spia da parte di Hitler, controllava in altre parole quello che faceva il Duce, e la Claretta gli confidava i suoi pensieri, le sue ambasce, e gli chiese, Claretta, di preoccuparsi di trovare un ricetto, un rifugio per Benito Mussolini quando sarebbe caduto il fronte italo-tedesco, ormai spostatosi in Val Padana. Vi ho detto di quella donna prima per raccontarvi, adesso mi ricollego, il fatto che fuggendo e andandosene via, Petacci andò a Merano, dove suo fratello Marcello aveva una villa, e il Duce diede rismanie. Questo è tutto un racconto che è venuto fuori successivamente, che ho trovato sull'Alto Adige negli anni immediatamente successivi. E se ne venne a Merano, Claretta, il Duce disperato si rivolse a Spengler per riuscire a rintracciarla. Spengler lo accompagnò fino a Merano, dove Claretta accondiscese a tornare col Duce a Salò, e nel frattempo Spengler si prese qualche giorno e andò al Renon per trovare un maso dove il Duce avrebbe potuto rifugiarsi con Claretta dopo la guerra. Trovò questo maso in località La Madonnina, che si trova nei pressi di Lana al Vento. Non sono riuscita a identificare il naso in quanto tale, però cosa accadde? Accadde che al momento della fuga il Duce preferì l'altra via, preferì un'altra via e prese la strada di Dong, dove fu ucciso. Se no, secondo i progetti di Claretta, sarebbero dovuti loro due rimanere sul Renon, di nascosti, fare passare qualche anno che la burrasca passasse e poi riemergere, per poi riemergere. Andò a finire così, piazzale Loreto. Questo è un altro momento interessante, siamo nel 1922, quando ci furono a Bolzano la prima fiera di Bolzano, pensate, si vuole celebrare la prima fiera di Bolzano, si aprì la fiera, non voglio scendere nei dettagli, corteo folcloristico, fascisti, squadre fasciste da numerose località del nord Italia convergono su Bolzano armate, aggrediscono, provocano prima, aggrediscono poi i componenti di questo corteo, e viene ucciso da un colpo di pistola il maestro Sepp Inhofer di Marlengo, che si era rifugiato con due bambini nel palazzo Stillendorf von Zallinger, che si trova in cima a Via della Roggia. Fu ucciso e questi sono i funerali che gli vennero tributati a Bolzano. Voglio proporre questa immagine non solo per il fatto che racconto poi nei dettagli nel libro, ma anche perché voi possiate identificare il posto. Non so se vi siete resi conto che questo è corso via Cassa di Risparmio e questa è via Leonardo da Vinci. Questo era il tram che passava da via Leonardo da Vinci a Cassa del Risparmio, binario unico, per cui il tram andava una volta in un senso, una volta nel senso contrario, una volta nel senso giusto, una volta contromano. E qui in fondo noterete che c'era la scuola, oggi si chiama Dante Alighieri, alla nascita si chiamava Kaiserin Elisabeth Schule, le manca un pezzo, perché quella scuola non fu tutta fatta durante l'amministrazione Peratone, vale a dire a cavallo del 800-900, ma fu conclusa, completata in periodo fascista. Questo è un altro episodio del quale avete letto recentemente sui giornali, e questo è uno dei 23 infiltrati italiani che furono passati per le armi dai nazisti alla caserma Mignone. Cos'era avvenuto? Era avvenuto che l'Italia legittima, che era dopo tutto quella del re, dopo tutto era così, il re era andato a Brindisi, aveva costituito un suo esercito, l'esercito dei cosiddetti badogliani, che collaboravano con, combattevano, tra l'altro ci fu anche una folgore che venne qui a Bolzano, e gli eredi della folgore, i paracadutisti, vennero qui a Bolzano, non si dissolsero dopo il Lameno e episodi del genere. Furono ingaggiati dagli anglo-americani per un lavoro di intelligence, venivano accompagnati con sommergibili fino sulla costa nel Veneto, oppure lanciati con paracadute dagli aerei perché entrassero in contatto con i partigiani. E 23 di questi furono rastrellati nei mesi. Da Verona furono portati a Bolzano, lager di via Resia, e un bel giorno, un brutto giorno, furono caricati su camion, trasportati alla caserma Mignone, e là in un capannone, uno dopo l'altro, furono uccisi con un colpo di pistola alla testa. Queste cose si sanno anche perché poi più tardi intervennero i processi alla Corte d'Assise di Bolzano, in particolare della sezione speciale della Corte d'Assise di Bolzano, che fecero luce su questi episodi che coinvolgevano dei sudtirolesi. Nel caso specifico, per esempio, un sudtirolese che vestiva l'uniforme dell'SS e si sono sempre difesi dicendo che loro non avevano fatto niente, che loro erano lì per caso, che loro erano stati interpellati dai nazisti solo in quanto interpreti. E dopo la guerra, nel 1945, qualche mese dopo, furono dissepolti da una fossa comune che era stata scavata nel cimitero di Bolzano, nella zona degli acattolici, perché a Bolzano nel cimitero ci sono anche gli acattolici, vicino al cimitero protestante, al cimitero ebreo, ci sono gli acattolici, che sono coloro che non sono cattolici e che non possono, secondo le autorità religiose contestate dall'assessore Claudio Emeri nel 1948, e questa storia la trovate lì raccontata, queste autorità religiose negano a coloro che sono atei o si professano tali o si dichiarano apertamente comunisti o che sono suicidi, negano loro negavano, adesso non so se ci siano ancora questi paletti, però questo provvedimento non è mai stato annullato, revocato. negano l'inumazione in terreno consacrato. Furono questi poveri ragazzi riesumati e si trovano ora nel cimitero militare di San Giacomo, che merita una visita. Una volta vorrei condurvi là a farvi vedere tante, tantissime cose interessanti. Lo riconoscete? D'Annunzio. Questo è D'Annunzio. Questo è Natale Palli, un aviatore militare che bombardò Bolzano, perché Bolzano nel 1918 fu bombardata in più occasioni dall'aviazione italiana, che ancora non esisteva in quanto aviazione, era una sezione dell'esercito quella che volava. E danni naturalmente limitatissimi rispetto a quelli che sarebbero intervenuti poi nella seconda guerra mondiale, quando ben 540 case furono rase al suolo. E questa è una bomba inesplosa che è rimasta lì in piazza Walter tra la gente incuriosita. Vedete, questi sono dei militari austro-ungarici e mi fanno un po' pena perché li vedo così stracciati, malmessi. 1918 la guerra sta per concludersi, tra l'altro, no? Questa è Nella Mascagni, ho dedicato a lei un capitolo alle sue dichiarazioni, al suo racconto di quando lei, partigiana, staffetta partigiana, fu ospitata, usiamo questo termine, nel lager di Via Eresia, e ha raccontato tante cose, è stata anche picchiata duramente. Questa è una curiosità che vi voglio proporre, voglio vedere chi di voi sa individuare dove siamo. Ho sentito dire municipio? Sì. Bravo! Questo era l'hotel Zur Anker, anzi Zum Anker, che si trovava in piazza Municipio, per l'appunto fu abbattuto, e nel 1908 là fu costruito il nuovo municipio di Bolzano, quello che attualmente era di proprietà, attualmente c'è, no? Era di proprietà di un certo Abramovic, perché qua nella zona c'era una certa presenza ebrea. Questo è il altro discorso, altra chiacchierata che faccio, è quella relativa al virgolo, questo benedetto virgolo che si vorrebbe, tutte le volte che si propone qualcosa c'è sempre chi ci mette i bastoni tra le ruote, e l'ultima volta è stato Thun, per l'appunto, no? Notate una cosa, qui siamo quindi prima della prima guerra mondiale, questa è la cremagliera del Renon, la terrazza, questa piccola cameriera, gli avventori, c'era la funicolare che portava lassù. Tra il 1900 e il 1910 Bolzano era all'avanguardia sotto questo profilo, furono realizzate la cremagliera delle Nonne, la funicolare del Buncina, quella del Virgolo e la funivia del Colle, che è stata la prima al mondo per trasportare, addetta al trasporto di passeggeri. Qui siamo in Valdega, questo è un altro capitolo che dedico alle strade, alla costruzione delle strade. Notate una cosa, non c'è la strada. Le strade allora a fondo valle non esistevano, la Val Serentina per esempio non era accessibile dal fondo valle come adesso, così anche la Val Gardena, così anche la Valdega, perché partivano con queste forre strettissime e impraticabili. Allora la gente per raggiungere i paesi doveva salire sugli altipiani e scendere dall'altra parte, su strade non carrozzabili, andando a piedi o a cavallo. Vi racconto la storia in questo libro, voglio vedere l'ora perché non voglio andare troppo lungo, no, ci stiamo ancora. Voglio raccontarvi della inaugurazione della strada di Val Serentina, che è stata buffissima, perché il percorso fu fatto da 5 carrozze. E il giornale dell'epoca che ho sfogliato, siamo attorno al 1850-55-56, pensate un po' quanto tempo fa, e le carrozze non sarebbero potute salire, e la curiosità dei giovani specialmente di Salentino si orientò sulla leggerezza delle carrozze, sulle ruote che avevano quei raggi così erano così leggere, così sottili, sulle sospensioni che erano addirittura inimmaginabili, no? E arrivarono queste cinque carrozze che piegarono per arrivare a Salentino 3 ore e mezza e per discendere da Salentino 3 ore e mezza, quindi fate il calcolo, oggi ci è arrivato in 10-12 minuti, no? Però la realtà era questa, noi non abbiamo idea della rapidità con la quale ci possiamo spostare oggi, se rapportata alla lentezza dei trasporti d'allora, ho detto prima della diligenza, ma una volta si andava a piedi, chi poteva permetterselo andava a cavallo, e chi poteva permettersi qualcosa di più ancora andava in diligenza. Ma non c'è un altro. Il primo treno arrivò a Bolzano nel 1858, trainato il primo viaggio, diciamo quello di collaudo, da una locomotiva che si chiamava Clio, perché le locomotive avevano un nome. E quando nel 1859 fu inaugurata ufficialmente la linea, il treno, che era di una consistenza maggiore, fu trainato da due locomotive che si chiamavano Bolzano e Trento in italiano, perché il sistema faceva capo alle ferrovie austro-ungariche che avevano sede a Verona, e difatti il giornale si lamentò del fatto che l'orario ferroviario fosse redatto in italiano. E questa è la strada costruita in Valdega, terra battuta, paracarri fatti di pietre erette. Il progetto di tutte e tre queste strade delle quali vi ho detto, quella della Val Gardena, quella di Salentino e quella della Valdega, era di un unico ingegnere che si chiamava Schweighofer. Questa donna che vedete qua, forse la intravedete, ve la voglio raccomandare, state attenti, questa è una di quelle venditrici, soprattutto friulane, che partivano da lontano con la gerla pesantissima, macinavano i chilometri e andavano in maso a vendere l'ago, le refe, i mestoli di legno e tutte le forbicette, tutte le tante cose che potevano servire, tessuti che potevano servire alle contadine dei masi, e avevano calze nere, un foulard nero in testa, portavano ai piedi, mi ricordo perché le ho viste ancora io durante la seconda guerra mondiale, delle scarpe che non erano scarpe, erano delle ciabatte nere con delle grosse suole di tessuto. E questa, vedete questa poveretta è piegata in avanti sotto il peso della sua gerla, e si è tirata sulle gonne per potersi muovere più agevolmente. Questo invece è lo sbocco della Val Salentina, come era prima che aprissero la strada. Vi dicevo che le forre erano impraticabili, quindi si andava lungo la montagna. Per raggiungere la Salentina si doveva salire dalla Val di Giarco e andare su verso Villandro, attraversare tutto l'altipiano del Brennone, il cosiddetto Kuntnerweg, e si scendeva così su Salentina. Questa è una stampa che ho colto da un libro dell'avvocato Arnaldo Loner, che è qui presente e che è un collezionista di antiche stampe. Ecco qua un altro discorso da fare rapidamente, il Palazzo Ducale. Palazzo Ducale che è stato realizzato per dare una sede a un Savoia, il Duca di Pistoia, Filiberto di Savoia, Genova. Perché? Perché bisognava dimostrare durante il fascismo l'italianità di Bolzano attraverso anche alla presenza di un Savoia, che era una garanzia. Allora fu abbattuta una bellissima villa che si trovava in zona tra i vigneti, la villa Wendland, di proprietà germanica. Su quella villa fu costruito questo palazzo reale, si chiamava, anzi villa reale la chiamavano, con salone, di tutto. Prossimamente il Circolo Cittadino organizzerà, ma perso i soci, una visita ai tesori di questa villa, che divenne per l'appunto Palazzo Ducale nell'accezione comune. Ci andarono ad abitare ho detto prima, il duca di Pistoia con sua moglie la duchessa di Pistoia. Perché proprio loro furono designati a tanto? Ho una mia interpretazione. Lui, il duca di Pistoia, aveva per via materna un'ascendenza che arrivava ai Wittelsbach, cioè alla famiglia reale bavarese. Elisabetta, la principessa Sisi, era una Wittelsbach, quindi forse era, diciamo, aveva qualche quarto di germanicità nelle vene, mentre lei, la consorte, che era belga, si chiamava Lidia di Arenburg e a sua volta aveva sangue tedesco nelle vene. Questa è piccola, però è interessante. Questo personaggio, beh, a parte questo personaggio, ma questo è Pierre Laval, che è stato presidente del Consiglio dei Ministri della Francia collaborazionista di Vichy. Questa è una cosa che i francesi rimuovono, ma se ci fu un'Italia di Salò, ci fu anche una Francia di Vichy, che collaborò con i francesi. Il presidente era Pétain, che fu condannato a morte ma poi graziato per la grave età, è stato un eroe della prima guerra mondiale Pétain. Questo era il presidente del Consiglio dei Ministri, per l'appunto Pierre Laval. Quando gli inglesi e gli americani, soprattutto gli americani, si mossero verso Parigi, non solo le truppe combattenti tedesche, ma anche le truppe combattenti francesi di parte nazista retrocessero tra l'altro un'intera divisione, la Carlo Magno, che era la divisione di SS francesi, e questi in buona parte defluirono attraverso l'Alto Adige. Queste cose non ci sanno. Laval ottenne col suo governo, ottenne da Hitler di poter salire su un aereo e rifugiarsi in Spagna, nella convinzione che Franco lo avrebbe accolto. Arrivò a Bolzano, pernottò nel Palazzo Ducale, dal quale nel frattempo naturalmente il duca di Pistoia se n'era andato e si era rifugiato in Svizzera. Andò all'aeroporto, che si chiamava Savelli, l'aeroporto di Bolzano, salì sull'aereo che l'aspettava, lui e altri esponenti del governo. L'aereo stette a lungo in pista perché si aspettava una persona che sarebbe giunta e che non giungeva. Chi poteva essere quella persona? Facilmente Mussolini, che aveva ottenuto a sua volta la possibilità di andarsene in Spagna, però non ci andò. Quindi Mussolini perse il tram del Renon con Vapetacci e Spegler, perse il tram della Spagna e fu raggiunto a Dongo dai partigiani, che lo trovarono con in tasca dei lasciapassare spagnoli. E questo chiude il giro. Laval salì sull'aereo che alla fine, visto che non veniva nessuno, prese il volo, arrivò in Spagna, e Franco non ne volle sapere, lì mi giunse all'aereo tedesco di tornare al luogo di provenienza, e questa, anziché atterrare a Bolzano, atterrò a Lienz, dove Laval e gli altri furono presi prigionieri dagli americani, che li passarono ai francesi, che li fucilarono. Questa è una cosetta curiosa, questo è un giornale, vedete qui, non so se riuscite a leggerlo, mi resta solo questo come testimonianza, è la cronaca di una impiccagione avvenuta a Bolzano, in piazza del mercato, sarebbe oggi piazza Verdi, dove si facevano queste, dove si giustiziavano i delinquenti. Ci fu un'impiccagione pubblica che radunò una massa di gente, tra l'altro, la gente dietro queste cose corre. Questo è Zingerle, adesso sono nella fase finale di questa mia esposizione, alcuni episodi tristi, avevo detto prima di Laval, adesso dell'impiccagione. Questo è Guido Zingerle, killer seriale, uccise a Bolzano nel 1946 la maestrina Kutin, Gertrud Kutin, sul Gulcina, riuscì a fuggire, solo che uccise poi, sempre violenza carnale, eccetera, eccetera, una turista inglese sul Pacherhof in Austria. Gli austrici lo individuarono, ritennero di poter indicare in lui l'autore di stupri e omicidi, e siccome lui aveva un recapito in valle urina, i carabinieri travestiti lo attesero, lo presero, e quando costui in corte d'assise fu processato, ammise 3 omicidi e non 2. Ma perché? Perché uno di questi presunti omicidi non era tale, lui aveva violentato e creduto di uccidere una ragazza di Caldaro, l'aveva abbandonata per morta e se n'era andata, mentre questa ragazza fortunatamente era riuscita a tornare in casa. Qui siamo all'episodio triste e tragico di Francesca Montebugnoli, l'impiegata dello studio Giatti, notarile, non si è mai saputo chi, ci sono dei sospetti che sono stati alimentati allora, si è tornati sull'argomento, e ne ho parlato anch'io, ci sono anche dei processi, bisogna stare attenti a parlare perché si rischia la querela, però un giornalista, Paolo Cagnan, di recente ha rievocato i 30 anni dell'omicidio, giornalista dell'Alto Adige, i 30 anni dell'omicidio, è stato querelato dal notaio Giatti e dal cognato del notaio Giatti, e che sono stati la querela da loro mossa nei confronti del giornalista è stata respinta dalla corte, e sono stati condannati tra l'altro a pagare anche le spese di giudizio. Non so se avete presente dove si trova Francesco Montebugnoli. Quando andate al coso, al cimitero, no, andate dritti, c'è quella specie di cappella rotonda grande, andate a sinistra lungo il porticato, e se camminate lungo il porticato e guardate a sinistra, una delle prime tombe è proprio quella lì, Francesco Montebugnoli, vedete questa fotografia affissa simbolicamente su un tronco d'albero di marmo bianco spezzato. Ho raccontato anche questa storia. Questo è Marco Bergamo, che ha condannato per 5 omicidi. Le donne, io ho scritto un libro che uscirà l'anno prossimo, che è intitolato Requiem a Bolzano, nel quale immagino una vicenda da romanzo giallo, nella quale racconto queste storie. Perché? Perché le donne hanno vita difficile a Bolzano, nel dopoguerra ne sono state uccise tante. Pensate che Bergamo è stato condannato per 5 episodi, tra cui quello di Marcella Casagrande. e anche Anna Maria, la famosa, come si chiama? Sì, la professoressa delle scuole medie, Anna Maria, mi ricordo, Cipolletti, esatto. E lui però ha messo i 4 episodi, ma non quello della Cipolletti. Bene, io penso di avere concluso il racconto di, relativo alle cose che descrivo in questo libro, però vi voglio far vedere come curiosità una Bolzano com'era, come eravamo, non noi, ma forse neanche i nostri genitori, perché non sono di Bolzano, siamo tutti più o meno degli immigrati. Guardate Bolzano nella seconda metà dell'Ottocento, quindi qui non c'è il monumento a Walter, quindi è prima del 1889. Qui c'è la ferrovia Merano-Bolzano, Bolzano-Merano, quindi siamo dopo il 1870. Questo è il ponte Loreto, che era di legno, e si chiamava Loreto per noi, Loretto con due T per i tedeschi tuttora, e si chiamava così perché a capo di questo ponte c'era una cappella dedicata alla Madonna di Loreto. Questo è il cimitero. Il cimitero si trovava allora, prima di essere trasferito in via Claudio Augusta, praticamente a ridosso di via Alto Adige. No, qui c'è il teatro moderno, no? Il teatro di oggi, e questo è il cimitero. Questo è il cimitero, sì sì. Questa è interessante, questa era fatta nei primi del 1900, erano le Bürgersale, le sale civiche, che erano state realizzate sotto l'amministrazione Peratoner, come sale di intrattenimento, dove si svolgevano concerti, balli e tante cose. In questa sala, in epoca fascista, furono aperte anche delle sale una sala cinematografica, e qua si trasferì il circolo ufficiali. Questa costruzione oggi non c'è più, era rimasto poco o niente, era buttata via quel poco che era rimasto. E questo è il piazzale delle fiere bestiane, i baracconi, le prime proiezioni cinematografiche a Bolzano avvenivano qua, il baraccone arrivava e proiettavano tutta una serie di brevi documentari accompagnati da musica. Questa era una casa di tolleranza, una delle prime case di tolleranza, a Bolzano ce n'era una qua, poi una in via Conciapelli, la primissima, mi dicono, ma non ho trovato riscontri, in via della Roggia. Anche queste case furono tutte spianate dai bombardamenti. Ecco, ho voluto farvi vedere un po' Bolzano come poteva essere, anzi come era, come noi non l'abbiamo vista. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che... Grazie per l'applauso. Ecco, la signora ha a disposizione alcune copie del libro, se vi interessano, copie del numero 4, ma vedo anche il numero 2, mi pare, no? C'è anche qualcosa di degli anni passati. Il mio primo libro in tema è del 2009, e l'ultimo per l'appunto di quest'anno. L'anno prossimo ci rivedremo per la quinta, finché non perderò il vice. Grazie ancora.